palla ovale. Buon pomeriggio a tutti da Carlo Genta, Gigi Borghi in redazione, Valeria Bernardi in regia. Il nostro contatto per le telefonate 800240024, per i messaggi 349-238-6666. Prima della fine di questa puntata, quindi prima delle 18, senz'altro vi daremo una classifica molto diversa in Serie B, perché è iniziato da pochissimo il secondo tempo, ma ci sono già risultatoni a sorpresa. Uno pressoché definitivo ed è il più importante, con il Grosseto capolista, o ex tale, almeno da sola, perché sta perdendo 5-0 a Vicenza. Sgrigna Bielanovic, Raimondi, Bernardini, Bielanovic gli autori dei gol. Tanto Sassuolo sta pareggiando 1-1 ad Ascoli, l'Empoli sta vincendo 2-1 a Piacenza, dunque potete immaginare come la classifica sarà diversa alla fine di questo programma. Classifica della B, e comunque poi avremo tempo per parlarne. Intanto noto che sullo sport italiano c'è un'area elettrica, in alcuni casi molto, davvero molto polemica. È il caso della scherma, ad esempio, dove oggi ci sono stati nuovi fuochi d'artificio. Stamattina un'intervista al vetriolo di Italia Riol, medaglia d'oro olimpica a Pechino, che insomma si è schierato con Aldo Montano e ha avuto parole pesantissime nei confronti del movimento schermistico italiano. Tagliariol dice: ha ragione Aldo, anch'io posso andarmene all'estero a gareggiare, ad esempio in Svizzera, dato che mio padre è svizzero, fuggono i ricercatori perché le strutture non ci sono, noi dello sport chiediamo poco. Non hanno saputo trattenere il mio allenatore Mazzoni, i senatori azzurri vogliono lavorare poco, è l'Italia del posto fisso. Dunque Tagliariol non si è risparmiato niente, ha già replicato, e quindi attendiamoci altre puntate di questa polemica che sta diventando rovente nel mondo della scherma. Ha già replicato Giorgio Scarso, presidente della Federscherma: sono estremamente risentito nei confronti di Tagliariol, perché questo ragazzo non ha mai alzato il telefono per parlare con un dirigente federale. Questa sperata mi sembra da reality show, visto che lui lo ha frequentato di recente. Questa l'uscita di Scarso, ultimi in ordine di tempo, ma attendiamo altre puntate. Aria non serenissima nemmeno sul rugby di cui stiamo per parlare. Intanto io sto guardando gli All Blacks che distruggono l'Inghilterra. Siamo 32-6, 78esimo minuto. Poi magari parliamo anche di questo con Giacomo Bagnasco, che è già in linea. Intanto oggi è ripreso il campionato italiano. Comincio a darvi i risultati già maturati, con Petrarca Padova che vince 15-12 sul campo del Casino Venezia. Viadana che batte Calvisano nel match clou di giornata 20-6, quindi Cari Parma, Ovrama Cari Parma 22, Futura Pac Roma 20, Almaviva Capitolina 13, Plus Valore Gran Parma 16, in attesa di Rovigo Benetton Treviso. Dicevo, aria non poco polemica nemmeno sulla pallovale, in realtà, perché dopo le brutte o pessime figure della nostra nazionale cucchiaio di legno nei test autunnali, c'è stato un po' di movimento, con l'idea che sembrava prendere forma di un super club sotto l'egida federale a disputare la Celtic League per far crescere il movimento. Certo è che qualcosa bisogna fare. I club subito si sono arrabbiati moltissimo. Poi ci sono nuove evoluzioni a partire dalle dichiarazioni del presidente Dondi, di cui poi parleremo. Giacomo Bagnasco, buongiorno. Carlo, buon pomeriggio a tutti gli ascoltatori. Tanto per spiegare con chiarezza cosa sta succedendo, Giacomo, sul rugby italiano e nel rugby italiano. In sostanza, Carlo, c'è da anni un dibattito sulla necessità o sull'opportunità di mettere in piedi più selezioni. In realtà si era sempre parlato di più selezioni in grado di partecipare quantomeno alle coppe europee, dei super, potevano essere in questo caso dei super club, delle selezioni anche su base geografica. C'era chi si era spinto più avanti, c'erano in particolare un paio di club come Calvisano e Benetton Treviso che si erano detti disponibili in un certo senso a uscire dal campionato, a partecipare anche alla Celtic League, che, lo ricordiamo, è il super campionato che raggruppa le franchigie scozzesi, gallesi e irlandesi. Siamo andati avanti così praticamente fino a sabato scorso. La novità apparente è un passo, che però non è stato ufficialmente confermato dalla federazione, verso la creazione effettiva di una sola selezione, una specie di Club Italia, che quindi avrebbe radunato i migliori giocatori italiani che naturalmente non hanno impegni e contratti con club stranieri, e che sarebbe stata in grado di disputare la Heineken Cup con la prospettiva di partecipare anche alla Celtic League, naturalmente previa autorizzazione, previo benvenuto, diciamo, da parte dell'organizzazione della Celtic League. Intanto, Carlo, mi fermo un attimo per dirti che il Galles ha battuto l'Australia 21-18 ed è l'unica sconfitta che le tre grandi del Tri Nations hanno subito in questo novembre di test match, quindi una grande impresa del Galles. E quindi la nostra prossima avversaria, le Sei Nazioni, già ha cominciato a fare sul serio. Il Galles, che ha vinto il Sei Nazioni 2008, si è rivelato tutto sommato la squadra più consistente anche nell'urto con queste grandi squadre dell'emisfero sud. Non vorrei aver perso il filo del discorso, in realtà eravamo arrivati al punto si supponeva, ecco, che ci fosse questo interesse da parte della federazione a mettere in piedi una selezione, sì. Una selezione che a quel punto sarebbe stata fatta di giocatori italiani messi sotto contratto direttamente dalla federazione, sì. In grado di spendere una cifra intorno, si era detto, agli 8 milioni di euro per finanziare questa nuova iniziativa. C'è stata una levata di scudi da parte dei club, che sono notoriamente contrari all'idea delle selezioni. C'è stato un primo risvolto pratico, una prima risposta quasi immediata da parte del Montepaschi Viadana, che ha ritirato la sua seconda squadra dal campionato di Serie A 2. Sappiamo che nel rugby le squadre cadette possono partecipare ai campionati, sì. Normali, diciamo, dovendosi fermare un gradino sotto le loro rappresentative maggiori. Il Viadana ha detto questa presa di posizione della federazione significa disinteresse verso i club, noi pensiamo a questo punto di dover cominciare a investire meno. Per la partecipazione globale, diciamo, sì. al movimento. Intanto c'è stata poi l'ultima. Poi c'è stata una smentita della federazione. La smentita da parte della federazione, con le parole molto precise e anche molto interessanti del presidente federale Dondi. Dopo il traffico, proseguiamo in questo discorso e vediamo a che punto siamo arrivati. Palla ovale. Io anche un paio di messaggi, tra le altre cose, 349-238-6666 per i vostri sms, 800-24-0024 per le vostre chiamate. Ebbene, uno riguarda Tagliariollo, scrive Fabio, la polemica a cui ho accennato prima, ma tutto in divenire, ne parleremo anche nei prossimi giorni. Tagliariollo, resti pure alla talpa, se vuole andare all'estero, vada e non si lamenti troppo, la TV gli ha dato alla testa, scrive Fabio. Credo che il discorso, Fabio, sia un po' più complesso. Queste denunce senz'altro sono molto, molto forti, molto pesanti, eccetera. Però si tratta di capire com'è realmente la situazione, come sono attualmente disegnati gli assetti federali e dove vanno anche a finire i quattrini, insomma. Ce n'è però poi uno relativo al discorso che stiamo facendo con Giacomo Bagnasco sul rugby, e lo scrive un ascoltatore che dice: sarebbe ora di fare questa selezione, se no facciamo qualche volta con la nazionale bella figura ma non vinciamo mai. Alessio da Treviso scrive, aggiunge: vi ricordate la bella nazionale solo con i giocatori di Treviso e Milano? Sì, ma quelli erano altri tempi. Belle figure qualche volta ma non vinciamo mai. Stiamo correndo, l'impressione, Giacomo, sul filo del rasoio, perché è un grande momento, onestamente, per il rugby, sport simpatico a molti, sul punto di esplodere, con una nazionale che fa cassetta, fa tendenza, ha grande appeal, tanti motivi per sostenere la nazionale. Però in Italia, una squadra che perde sempre, l'appeal fa anche presto a perderlo. Eravamo arrivati a questa proposta e alla risposta federale del presidente Dondi, che è l'ultima tappa anche qui della vicenda. Dondi ha corretto il tiro, non super club sotto la bandiera federale, ma par di capire soldi ai club per tenere i giocatori o far tornare i giocatori della nazionale. Non è così? Sì, guarda, quella del tenere i giocatori in questo momento può sembrare la battaglia più importante, perché oggettivamente è difficile pensare che un giocatore come Sergio Parisse, un giocatore come Martin Castrogiovanni, faccio due nomi, che sono lautamente pagati, tanto sì, per cominciare dai loro club, ma soprattutto sono inseriti in contesti altissimi, tecnici e non solo, rispettivamente allo Stade Français e all'Ester, tornino in Italia. Ecco, ci vorrebbero delle offerte veramente straordinarie. Mentre un ragionamento giusto che viene fatto in questo caso anche da rappresentanti di club è quello di cercare, facendo anche sacrifici, di tenere i migliori giocatori, i giovani che stanno emergendo, cercare di non lasciarli perdere. Un nome per tutti potrebbe essere quello di Leonardo Ghiraldini, che è il tallonatore del Calvisano e della Nazionale. Vedremo, ecco, fino a che punto gli aiuti della federazione potranno consentire ai club italiani, primo, di non perdere i loro migliori giocatori, secondo di far arrivare, se possibile far tornare, qualche giocatore italiano del più alto livello che attualmente gioca all'estero, e terzo anche di riuscire a creare tramite i loro vivai la possibilità di avere più giocatori italiani che rimpolpano le file del Super 10, Evitando la partecipazione di tantissimi giocatori stranieri oriundi che comunque sono di un secondo o addirittura sono di una seconda o addirittura di una terza fascia rispetto ai giocatori di reale e genuino livello internazionale. Certo. Alla discussione si aggiunge, lo saluto e lo ringrazio, il nostro amico di lunga data e voce del rugby sulla 7, Gianluca Barca. Gianluca, buonasera. Buonasera a tutti, buonasera. Io sarò anche rivoluzionario, però a me l'idea di un super club, è chiaro, contro l'interesse dei club che sono arrabbiatissimi, però l'idea di un super club che partecipi alla Celtic League, di un super club che faccia crescere finalmente il rugby italiano, a me non dispiaceva, tutto sommato. Anche se è rivoluzionario, io sono comunque dell'idea che qualcosa si debba fare, perché se no si rischia di perdere l'appeal di cui sopra, che la Nazionale ha creato anche con tanta fatica, però si rischia di perderlo, perché siamo in Italia, una squadra che perde, alla fine può non essere più così simpatica, ecco. Allora, su questo ti do senz'altro ragione, sul fatto che si debba fare qualche cosa anche. Che cosa è il capitolo un po' più difficile da affrontare? Perché bisognerebbe cominciare a mettersi intorno a un tavolo e discutere effettivamente quali sono le strategie migliori, quelle che possono essere condivise, e quali sono poi i passi che possono essere fatti in questa direzione. Io non sono per definizione e per ideologia, diciamo, contrario all'idea di fare questa famosa selezione. Faccio un po' fatica a immaginarmela, a immaginare il seguito che può avere, posso far fatica a pensare come sarà organizzata e strutturata, però certo, finché tutto rimane a livello di chiacchiere, perché certo, qui a questo livello siamo, cioè, e nessuno riesce a fare un passo avanti mettendo bene in chiaro che cosa si vuole fare, in che tempi, dove, come e quando, e allora effettivamente noi rimaniamo alla finestra, collezioniamo delle sconfitte più o meno onorevoli, e come dici tu, prima o poi anche il pubblico si stuferà di vedere una squadra che perde sempre. Anche perché io i messaggi li vedo, le telefonate le sentiamo, io e Giacomo Bagnasco, insomma, belli, bravi, simpatici, charmant, tutto quello che volete, però sulle copertine dei giornali. Sì, ma va bene tutto, va bene tutto, va bene anche che si vedano le facce del rugby in ogni forma, però se alla fine perdi sempre, poi fai fatica anche ad andare sulle copertine dei giornali o anche a fare degli spot pubblicitari. Sono d'accordo completamente. Il problema, secondo me, è che bisogna individuare dove sono e quali sono i 2, i 3, i 4 punti deboli. Il problema degli italiani che vanno all'estero, sai, per esempio, io su questo ho un'idea che fermare il mercato è pressoché impossibile. Insomma, vanno all'estero, vanno in Inghilterra, in Francia, i neozelandesi, i sudafricani, i campioni del mondo, e quindi voglio dire, certo, ragione capisco che ci vogliano andare i nostri, se hanno l'opportunità di confrontarsi su un palcoscenico di livello superiore, certo. Però il discorso è che bisogna identificare quali sono i passi concreti che si possono fare e provare a ragionare e metterli in pratica. Invece, certo, così noi siamo sicuri che parliamo di tutto, ma raramente si fa qualche cosa, insomma, cioè parlare di tutto per non fare niente, che è una versione ulteriore del famoso gattopardismo di cui noi siamo abbastanza protagonisti. No, che poi Giacomo Bagnasco, anche, cioè, anche a livello di organizzativo proprio, allora oggi c'è stata la pausa per la nazionale, oggi torna Super 10, che adesso si riferma fino al 20 di dicembre per lasciare spazio alle coppe europee, nelle quali le nostre andranno in campo e prenderanno botte e gol, e poi torniamo al Super 10. Anche da questo punto di vista, se vogliamo allargare la platea del rugby, non si possono fare passi avanti, Giacomo. Sì, sì, questo è vero. Ci sarebbe comunque bisogno di una riorganizzazione probabilmente del calendario, forse anche a livello internazionale. Ne abbiamo forse già parlato sabato scorso, il presidente della Federazione Italiana Dondi sottolineava in una chiacchierata un aspetto, diceva che ad esempio i test match collocati in questa parte della stagione, le partite delle europee contro le grandi dell'emisfero sud che vengono in tournée non possono che favorire le grandi dell'emisfero sud che arrivano più fresche dopo un periodo di preparazione trascorso assieme molto, molto più lungo. Questo è uno dei tanti problemi sul tappeto. D'altronde sarebbe probabilmente, anche se è una cosa che va contro la nostra mentalità, sarebbe meglio in ogni caso raggruppare il campionato italiano magari in due blocchi, ma sì, molto ben definiti, certo, o in un blocco solo, giocarlo, visto che sono in tutto 10 squadre, giocarlo nello spazio di 4 mesi, dandogli una continuità che vorrebbe dire anche probabilmente visibilità e interessi maggiori. Oggi ad esempio credo di sapere che Gianluca era a Viadana per Montepaschi Cammi, una partita tra le squadre che comunque si collocano al vertice dal punto di vista del budget, dal punto di vista dei risultati in questi anni. Volevo chiedergli che tipo di partita era stata, sospettando e temendo che non si sia visto grande spettacolo. Gianluca. Devo dire, la partita è stata molto combattuta, molto fisica, molto una bella battaglia, insomma. Certo, non abbiamo visto il rugby di livello internazionale, ma questo lo sapevamo. È stata una partita intensa con molti scontri fisici, ha vinto il Viadana 20-6. Io credo che su questo bisogna anche riflettere, perché si deve riflettere, perché alla fine abbiamo visto una partita combattuta, intensa, naturalmente intensa a livello del campionato italiano, cioè nel senso che è stata una partita con grande aggressività, grande impegno. La qualità è la qualità di un campionato che non è né quello francese né quello inglese, ma questo lo sappiamo, insomma, nel senso che il rugby italiano è una cosa diversa rispetto a quello anglosassone o quello francese. Però quindi non è vero che il campionato italiano non offre combattimento, non offre agonismo, lo offre a livello in cui possiamo permettercelo. Certo, bisognerebbe anche avere poi arbitri all'altezza, ci vorrebbe soprattutto quella continuità di cui parlavate un attimo fa, perché si gioca oggi, adesso non si gioca per altre 2 settimane, poi si gioca la prima settimana, insomma fino alla fine di marzo, da qui alla fine di marzo il campionato italiano disputerà altre 3 giornate. Mi sembra un po' poco per far appassionare il pubblico, 3 giornate in 3 mesi. Abbi pazienza. Sentiamo anche Giovanni da Torino, poi una risposta di Giacomo Bagnasco, Gianluca Barca e poi ci fermiamo un attimo. Giovanni, buonasera. Buonasera a lei, buonasera. Guardi, ero qui con i 2 bambini in macchina, il maschietto sta crescendo, io un po' di tempo che mi sono avvicinato un po' al rugby, ho guardato questi test match, ho visto anche 6 Nazioni l'altro anno, insomma. È uno sport che mi... Che le piace. È stato piacere, mi piace. Io mi sto avvicinando, non posso giocarlo anche da tale età. Però comincio anche a pensare fortemente che piuttosto che mettere mio figlio in mezzo a dei campi di calcio dove ormai non c'è più il campetto dove si va a giocare come giocavo io una volta con i miei amici fino ai 12-13 anni. Adesso da 10 anni in su ti mettono già nelle squadre, tornei, verissimo, vittorie, sì, allenatore, sì. Schemi. E ho saputo che vicino a casa mia c'è una squadra di rugby e quindi, boh, chi lo sa, vediamo. Io ho intenzione di mandare avanti questa cosa e vedere se la cosa attecchisce, ecco, su mio figlio. Poi, per carità, non voglio obbligarlo. No, però farlo provare magari sì, l'idea mi sembra splendida. Farlo provare sì. Quello che dico io, adesso ho sentito che parlavate appunto di questo discorso del cercare di rendere il campionato più adatto a poter andare anche all'estero per far crescere la nazionale, eccetera. Quello che io, esperienza personale, trovo in una nazionale di rugby che va bene, è stata sconfitta, si vede a volte la differenza di certe, diciamo, sì, certi metodi di pressione che hanno magari le mischie avversarie rispetto alla nostra, e va bene. Però io vedo il grande messaggio di sportività e di correttezza e di reazione dei giocatori nei confronti delle decisioni dell'arbitro, soprattutto l'ultima partita che abbiamo fatto, in cui non c'era l'audio perché i giornalisti della Sette erano in sciopero, si sentiva l'arbitro cosa diceva i giocatori, ed è una cosa incredibile sentire il giocatore, l'arbitro che dice ai giocatori: stai fermo, guarda che se ti muovi vai in fuori gioco. Ma è tutto verissimo, è reale ed è fantastico. Però e lei fa benissimo a far provare al suo bambino questo sport e questo che porta anche un messaggio. Però quello che dico è che a livello di grande pubblico, una nazionale, anche uno sport meraviglioso come il rugby, se perde sempre al massimo livello, che è poi quello che appassiona tanta gente, lei compreso, alla fine di strada sul grande pubblico ne fa fino a un certo punto. Io vorrei una risposta secca da Giacomo Bagnasco e Gianluca Barca prima di fermarci. La proposta del presidente Dondi: diamo i soldi ai club per tenere i giocatori e, se possibile, per far tornare quelli che sono all'estero, può essere risolutiva oppure no? Giacomo. Guarda, francamente dipenderà dalla quantità di soldi. In ogni caso è chiaro che prima di depotenziare il campionato, che è la nostra grande tradizione, bisogna pensarci bene, essere, non dico sicuri, ma convinti anche ragionevolmente di fare un bel passo avanti. Gianluca. Ma io sono d'accordo, potrebbe essere una strada, non è l'unica, non è l'unico strumento che bisogna utilizzare, però cominciare a rafforzare il movimento e permettere ai club di tenere i migliori, magari di prendere qualche straniero più forte, con attenzione, senza buttare i soldi dalla finestra, questo potrebbe essere un percorso giusto. Grazie ad entrambi, Giacomo Bagnasco e Gianluca Barca, ci ragioniamo sopra e magari tra 7 giorni torniamo a parlarne. Palla ovale. Ecco che torniamo, tra poco vorrei parlare un po' di sci e delle polemiche che peraltro stanno accompagnando questo inizio della stagione della velocità sulle nevi americane, oltre che ovviamente di fattori agonistici. Poi parleremo anche di calcio, adesso però c'è un ascoltatore ancora in linea, Hiroshi da Bergamo, buonasera. Sì, buonasera, io volevo fare un intervento sempre riguardo il rugby, sì, la nazionale. Io amo questo sport da sempre, sono stato anche giocatore, sono, sì, arrivato solo fino alla Serie B, però ecco, ha giocato a rugby, sì, sì, è un, sì, rugbista. Sì. Esattamente, adesso ho fatto poi anche altri sport, però io trovo che la nazionale italiana di rugby sia una cosa commerciale, perché noi abbiamo alla fine i giocatori contati, se uno si fa male non abbiamo un giocatore di livello, sì, trovo anche che tra i 15 di lì non ci siano dei giocatori, tra tutti i 15 non trovo che tutti possano giocare al livello di 6 nazioni o test match. Quindi ce ne sono 5 o 6 di giocatori, diciamo 5 o 6 di giocatori di massimo livello internazionale. Ecco, sì, sono d'accordo, pur apprezzando tutti gli sforzi del presidente Dondi, però trovo che un 6 nazioni per l'Italia sia un po' troppo, insomma. Cioè, noi possiamo fare tante cose qua in Italia, cercare di svilupparlo, però al momento trovo che abbiamo avuto una grande generazione con Checchinato, poi siamo passati a una specie di buco, abbiamo trovato Troncon, mi viene in mente Pez e i suoi fantastici calci in un Francia-Italia allo Stade de France, dove ero presente, però ritengo, mi si passi il termine, che l'Italia non sia degna di partecipare al 6 nazioni. Sì, però vede, se ci levano 6 nazioni facciamo non uno ma un milione di passi indietro, perché qui bisogna distinguere tra quelli che il rugby lo hanno praticato e lo amano da sempre come lei, che è fatalmente una nicchia ancora, e quelli è il grande pubblico, perché si tratta di distinguere. È chiaro che per la gente del rugby, come lei, ripeto, sì, certo, senza 6 nazioni, lei dice non siamo degni di questo livello, torniamo indietro, non facciamolo e ritorniamo nel nostro rotticello vedendo di crescere. Lì non cresceremo mai. Se vogliamo crescere il rugby bisogna invece cavalcare l'onda. Bisogna cavalcare l'onda, bisogna andare verso il grande pubblico e allora a quel punto il Sei Nazioni diventa la nostra unica ciambella di salvataggio, con l'idea di fare qualcosa, ma di concreto, come si diceva prima, per far diventare quei 5-6 giocatori che abbiamo al massimo livello competitivo internazionale, farli diventare 10, poi 13, poi magari anche 15, ma senza aspettare un'infinità di tempo, perché sennò l'onda si abbassa e a quel punto sarà molto difficile poi trovarne un'altra come questa. Quindi è chiaro che insomma per la gente del rugby ci vuole pazienza, ci vuole tempo, ci vogliono i passi giusti, però non dobbiamo dimenticarci che il momento è adesso e bisogna fare qualcosa adesso, sennò quell'onda finisce. Grazie Roshi, torni a trovarci, 800 24 00 24 per le vostre telefonate. Naturalmente, se volete anche continuare a parlare di rugby, siamo qui. Adesso però io vorrei parlare di sci con Dario Puppo. Ciao Dario. Ciao Carlo, un saluto a tutti gli ascoltatori. Polemiche, dicevo, sullo sport italiano. Abbiamo sviscerato ora quelle del rugby, di questo presunto ipotetico super club sotto l'egida federale, che si farà o più probabilmente non si farà. Abbiamo parlato prima delle polemiche sulla scherma, però anche nello sci leggo oggi ad esempio sulla stampa la vigilia della prima discesa dell'anno, che sarà un'ora e venti in America. Con la discesa torna la paura. Miller, Bode Miller naturalmente, basta rischiare la vita, la federazione ha fatto poco per noi, tanto morire tocca a noi e se ti va male ti sostituiscono. Dato giù piano Bode Miller. Sì, queste sono dichiarazioni francamente un po' vecchie, di tipo 10 giorni fa, poi non sono state riprese dai giornali italiani, anche perché in realtà Miller è andato giù pesantissimo ancora una volta di più sul discorso del doping, perché l'intenzione attraverso il passaporto degli atleti medico c'è di estendere delle misure che valgono già per qualche squadra nazionale, di praticamente rendersi disponibile un'ora al giorno tutti i giorni dell'attività sportiva nel sapere dove si è insomma raggiungibili, reperibili, sì, nel caso di un controllo antidoping. Lui ha parlato di insomma violazioni della privacy, di tante altre cose. Poi in realtà Bode Miller insomma sembra che sia sempre tirato in mezzo quando ci sono queste sue dichiarazioni. Lui adesso non è più ingenuo, perché ha 31 anni, insomma, in realtà fa parlare anche tanto dei suoi sci, però è vero, le polemiche ci sono e soprattutto, Carlo, questa è la prima discesa dopo quello che è successo a Lanzinger, perché a sì. Bormio la gara è stata cancellata, in quell'occasione gli è andata male a Miller perché per 5 punti non ha vinto e non gli è mai successo in carriera ancora la coppa di specialità di discesa, per cui è chiaro che ci siano questi argomenti adesso, perché in effetti con la caduta di Svindal, che torna a gareggiare nella regina delle discipline proprio a Lake Louise, insomma tutte queste situazioni messe insieme sicuramente devono fare comunque tenere l'attenzione molto alta. Miller tra le altre dichiarazioni ha detto che secondo lui, e io credo che un campione come lui vada ascoltato, ci vogliono più reti A di protezioni lungo il tracciato, e tra l'altro ha preso anche un piccolo spavento Miller nella seconda prova cronometrata, in cui è arrivato ancora una volta a essere il migliore, perché non riusciva a condurre gli sci come voleva. La pista di Lake Louise non è complicata, però, ed è il caso di queste ultime ore, si sta andando a ghiacciare molto, perché le temperature sono scese in maniera drastica. Il fatto di aver provato una pista in condizioni molto diverse può aumentare il rischio. Certo, può aumentare il rischio, e comunque è realistico quanto dice Bode Miller, al di là dell'età di queste dichiarazioni, che comunque i passi da fare sulla via della sicurezza quando si va a quelle velocità sugli sci sono ancora tanti. È vero, perché comunque faccio un parallelo nella pista, nel budello velocissimo delle Olimpiadi di Vancouver, dello slittino, si va a 150. Io ricordo le velocità a Wengen sono le stesse. Non so se debba fare più paura o sia più pericoloso l'uno o l'altro, però effettivamente le velocità raggiunte dagli sciatori, e basta un piccolo avvallamento per insomma, mandarti all'aria tutto l'assetto, per cui bisogna guardare alla tutela degli atleti. C'è stata una decisione insomma importante, che adesso gli sciatori hanno la possibilità di utilizzare qualunque tipo di protezioni. Se ti ricordi, lo scorso inverno, sì, proprio in Italia era scoppiato un po' un caso con gli italiani perché volevano usare delle protezioni che non sarebbero state a norma. Adesso questo, diciamo, problema, questo ostacolo è stato superato, per cui insomma io direi che questa è una cosa che va nella direzione verso la tutela della salute degli sciatori. C'è anche da dire un'altra cosa, che le previsioni meteo, adesso speriamo che si possa essere più fortunati, però è stato ieri il vento che ha condizionato la gara dello scorso anno, quando vinse Udec, che tanto per cambiare non c'è per un infortunio. E ieri si sono fatti male altri due sciatori, problemi non di caduta come quello di Svindal per fortuna, o ancor peggio di Lanzinger, però sia Foyth, questo fenomeno giovane svizzero che non riesce proprio a fare gare ad alto livello, l'anno scorso è distrutto il ginocchio, quest'anno un altro problema al ginocchio, e anche François Burke dovrà saltare tutta la stagione. Dario, ci fermiamo un attimo per il traffico e poi parliamo invece sul fronte agonistico di quello che possiamo raccattare noi come italiani da questa trasferta nordamericana, compreso il fatto che insomma Staudacher sta ancora aspettando il primo, da campione del mondo, il primo podio in Super G, cioè la sua specialità. Palla ovale. Allora, ma anche sci, stavamo parlando con Dario Pupo delle gare che ci aspettano tra questa sera e domani in Canada. Dario, quali prospettive per lo sci azzurro da questo inizio della velocità? In particolare, Staudacher riuscirà a conquistare il primo podio in carriera nel Super G? Allora, a lui piacciono le condizioni della neve del nord, perché lui il risultato quel giorno in Svezia mondiale lo ha ottenuto proprio in condizioni... La neve non è la stessa, perché diciamo la fattezza della neve è diversa, quella che c'è nelle Rocky Mountains è diversa, insomma, proprio come cristalli, però, e questo cambia anche la preparazione dei materiali, però ci sono condizioni simili. Solitamente gli italiani dicono che non amano quelle condizioni, lui potrebbe anche fare abbastanza bene, lo ha fatto insomma un paio di stagioni fa, qualche buon risultato in Nord America, però... Così, a guardare le analisi delle prove cronometrate, mi sembra che siano gli altri italiani più indicati a fare meglio di lui, però penso che nel corso della stagione potrà arrivare qualche buon momento per Staudacher, non credo oggi in particolare, forse in generale in questa trasferta nordamericana. Spero tanto di essere smentito, perché è un ragazzo poi che ha avuto tanti problemi fisici anche lui, e quella giornata di sole a ore insomma se l'è anche meritata, voglio dire, anche perché l'ha cercata. Io penso però per gli italiani c'è da aspettarsi Werner Hell, perché soprattutto nella seconda prova cronometrata il punto della pista, che è più o meno tra i 50 secondi e il minuto e 15 per intenderci, è lì che si fa la differenza teoricamente, perché non è una pista impegnativa, in quel punto ci sono le curve, la S, dove se sbagli il tempo di entrata o comunque se commetti qualche errore lì lo paghi caro. Hell ha fatto lo stesso tempo in quel segmento, un po' se vogliamo fare un discorso simile a quello della Formula 1, che ci sono i vari punti della pista, sì, che si vanno a vedere, ha fatto lo stesso tempo di Bodie Miller, quindi è abbastanza indicativo insomma quell'intermedio, e ha fatto bene anche nel primo giorno. Phil uguale, direi che ha dato dei segnali. Io sono molto sorpreso per come Svindal non abbia dato segnali di tentennamento nelle prove cronometrate, perché ha dimostrato di esserci. In generale per gli azzurri direi che insomma sono loro due le nostre principali speranze, chiaramente speriamo anche negli altri. Oggi c'è in gara anche in discesa Manfred Mölg. Sì, certo. Dario, ci diamo appuntamento pubblico per domani sera, siamo come sempre, saremo qui dalle 22 alle 23 all'interno dei tempi supplementari della domenica, parleremo di sci, risultati alla mano con Dario Pupo. Grazie, a domani Dario. Grazie mille a voi. Dunque, finale in Serie B, il Grosseto prende 5 sberle a Vicenza, 5-0 dunque per i biancorossi, e a questo punto c'è un terzetto in testa alla classifica, Grosseto raggiunto dal Sassuolo che pareggia 1-1 ad Ascoli e dall'Empoli che batte 3-2 il Piacenza. Quindi Rimini vince 2-0 ad Avellino, Albino Lef 2-1 a Bari, Cittadella ancora 0-0, Brescia vince 2-0 a Mantova con doppietta di Caracciolo, Modena Livorno 0-0, Pisa 3 Frosinone 1, ieri si è giocata Salernitana Parma 2-1. Chiudiamo con quattro chiacchiere di calcio, anche per capire cosa vedremo tra oggi e domani. Primo anticipo di oggi Catania-Lecce, poi stasera c'è la Juventus che torna dopo aver perso con l'Inter sabato scorso, e c'è al di là del flash di Champions League, grande attesa per capire se la Juventus avrà ancora voglia di partecipare alla corsa Scudetto. Ieri le parole di Ranieri: Scudetto a fare loro, a fare delle milanesi, noi vogliamo migliorare il terzo posto dell'anno scorso. Inviato di Tutto Sport, Guido Vaciago. Buonasera Guido. Buonasera a te e a chi ci ascolta. La settimana della Juventus, al di là della trasferta nel gelo di Champions League. Sì, nei meno 8 di San Pietroburgo. No, sì. Beh, direi una settimana positiva, perché era iniziata male, se vogliamo, con la sconfitta, era finita male la settimana precedente con la sconfitta di San Siro, che aveva un po' incrinato gli umori, ma non le certezze della Juve, perché poi la squadra si è ritrovata bene a San Pietroburgo, e secondo me è stato significativo il discorso che ha fatto Del Piero a fine partita. La Juve ha ritrovato la voglia delle sette vittorie consecutive, sì. Quasi a dire che quello di San Siro è stato un episodio e che loro erano pronti a rigettarsi subito nella mischia cercando di inseguire l'Inter, perché loro, perlomeno i giocatori, non hanno nessuna intenzione di lasciare il Milan e l'Inter a disputarsi lo scudetto. Quel perlomeno i giocatori mi lascia un po' perplesso. Beh, perché anche noi siamo rimasti molto, molto perplessi a sentire Ranieri ieri, perché non sembrava un discorso di un allenatore che volesse gufare, come se vogliamo usare questo termine, nel senso che dire sono favoriti loro per alleggerire la pressione. Certo. Sembrava più un allenatore che mettesse le mani avanti, dicendo, stando magari specificando che a lui la società non ha chiesto lo scudetto, cosa che peraltro può anche essere una cosa giusta, può essere, però in sede pubblica, se sei l'allenatore della Juve, e soprattutto il campionato è ancora aperto, non c'è niente di precluso, fare un discorso di quel genere forse è un po' riduttivo. Nessuno si aspetta dei proclami, nessuno si aspetta che uno dica lo scudetto lo vinciamo noi, ma perlomeno dire fino all'ultimo ci proveremo poteva essere una cosa più positiva. Poi stiamo parlando di parole, poi sul campo Ranieri non penso che voglia perdere la partita di questa sera o non voglia provare a vincere lo scudetto, però a volte le parole servono. Certo, ma magari Ranieri voleva semplicemente sottolineare il fatto, come si è sottolineato in settimana o nell'immediato post di Inter-Juventus, che ha dimostrato come la Juventus non sia ancora, dal punto di vista dell'organico, a quel livello, insomma. No, la Juventus non lo è, perché se prendiamo le rose delle squadre la differenza è abbastanza evidente. Non è spropositata come poteva esserlo l'anno scorso, qualcosina la Juve ha migliorato, però è ancora abbastanza ampia. Detto questo, però, quando si vede la Juve lottare, quando si vedono giocatori che apparentemente sulla carta dovrebbero essere inferiori, riuscire sempre a tirare fuori quel qualcosa in più, è un po' retorico parlare di questo DNA della Juve, è diventato un po' abusato, però è clamorosamente vero. La Juve ha, forse grazie a giocatori come Del Piero, come Buffon, che adesso è assente, ma lo spirito del portierone c'è sempre, come Nedved, come Camoranesi, riesce sempre anche a tirar fuori da giocatori meno acclamati, meno bravi tecnicamente, riesce a tirar fuori quel qualcosa in più, per cui effettivamente è dura a morire la Juve. Quindi anche quel gap di cui si parla tanto con l'Inter spesso può essere in qualche modo colmato proprio da questo spirito. Guido, per chiudere, come leggi la giornata di domani, al di là della Juventus, perché domani Inter Napoli con Mourinho che lascia a casa Balotelli e Quaresma dicendo non si sono allenati bene, non vengono a giocare con noi domani, non convocato nemmeno Materazzi. La Roma che riceve la Fiorentina, un'altra partita estremamente importante, con la Fiorentina che è uscita dalla Champions League secondo me anche con un po' di spirito troppo leggero, perché tutto sommato dicono vabbè, noi siamo qui per partecipare, per fare una bella gita in Europa, non abbiamo esperienza eccetera, però è un discorso accettabile fino a un certo punto. Adesso la Champions League è ancora da conquistare per i viola. Sì, perché il contraccolpo psicologico potrebbe essere forte, e oltretutto la Roma invece viene dalla Champions League viene esaltata, torna in qualche modo a essere corroborata dai risultati, sta ritrovando il Totti migliore, quindi Roma-Fiorentina potrebbe essere una partita che, se la Fiorentina dovesse perdere, segnerebbe un passaggio, certo, un passaggio certo, vuoto certo, importante certo. per i viola e un passaggio importante per la Roma, che sta sta provando una disperata rimonta. In questo momento la zona Champions per la Roma è a 10 punti, però è anche vero che il campionato è lungo. Penso che comunque la partita di maggiore interesse domani sarà sicuramente quella dell'Inter, perché sarà interessantissimo vedere il Napoli, che si è già confermato grande squadra a tutti gli effetti. È inutile che diciamo che il Napoli domani fa un esame, l'esame li ha già superati, sì. Dire, il Napoli ha battuto la Juve, ha dimostrato di meritare la posizione in classifica, e quindi l'Inter ha uno scontro diretto difficilissimo, cioè dopo a 7 giorni di distanza, 8 per l'esattezza, da Juve, dalla partita con la Juve, affronta il Napoli, che è uno scontro diretto importante, quindi sarà forse più un esame per l'Inter. Bravo, che per stavo il dicendo, io l'esame forse è per l'Inter domani, esatto. Perché se salta anche questo, allora possiamo cominciare a dire che al di là dei punti che sono ancora pochi, è fuga vera se non altro sul piano dell'atteggiamento. Grazie Guido, buon lavoro. Grazie a voi. Grazie Guido Baciago, inviato di Tutto Sport, e così chiudiamo questo programma. Grazie a Gigi Borghi in redazione, Valeria Bernardi in regia. Ci sentiamo naturalmente domani pomeriggio dalle 17 alle 19, tanto per cominciare. Buona serata da Carlo Genta.